Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Dal 28 settembre, lo ricordo, torneremo con Mario Secchi e Pietrangelo Buttafuoco, i Faccia a Faccia, i gialli della storia, le inchieste, molte novità. Ma oggi parliamo ancora di musica e naturalmente di storia. Siamo nel 1974. Franco, cosa ascoltiamo quest'anno? Il 45 giri, re delle classifiche del 1974 è... Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati senza fiatare. Seguire il tuo profilo con un dito, mentre il vento accarezzava piano il tuo vestito. E tu, fatta di sguardi tu e di sorrisi ingenui. Claudio Baglioni, e tu, ma quanto coraggio ci vuole iniziare una canzone con una parola che si dice accoccolati. Sono Franco Schifani, ciao a tutti. E io sono Alessandra Fiori. E caro Franco, il 1974 è un anno molto molto importante e anche molto contraddittorio per l'economia italiana. Infatti cresce il numero di bar, ristoranti, alberghi, e anche il traffico, caro Franco, si infittisce con oltre 1.200.000 nuove immatricolazioni di veicoli. Pensa, Franco, che nel 2015, oggi, sono state oltre 1.500.000. In pratica siamo tornati lì. Comunque nel 74 aumenta anche il prezzo del petrolio, che fa calare invece la produzione industriale e di nuovo aumentare la disoccupazione. La Fiat a Torino mette in cassa integrazione oltre 65.000 operai. Allora Franco, ti chiedo di dare un'immagine in musica di questo 1974 così altalenante. Come fai? Come faccio? Quello che balza subito agli occhi è la nascita di una miriade di complessi leggeri che propongono una musica senza impegno. Praticamente copiano quelli che in America hanno i bubblegum group, cioè i gruppi della gomma da masticare. I bubblegum. È un nuovo genere nazional popolare che comunque ha un grandissimo successo, perché quell'anno in classifica vanno un sacco di brani. Un bacio in punta di piedi, Anna che piange sempre guardando un film, Anna che mente male eppure ci credi, è tutto già passato ma è vivo qui. Anima mia, i cugini di campagna, un classico oserei dire. Poi Anna da dimenticare, i Nuovi Angeli e Duane Buggy degli Oliver Onions, che non sono un gruppo americano inglese, sono italianissimi, sono di Roma, sono due fratelli bravissimi e sono ormai specializzati in colonne sonore, tipo i film di grande successo di Bud Spencer e Terence Hill, Alessandra. E infatti questo ti volevo dire, Duane Buggy è la colonna sonora di un grandissimo film del 1974. Non mi va che ti squagli con questa cariola se non decidiamo prima di chi è. Ehi, m'hai letto nel pensiero. Senti, giochiamocela a birra e salsiccia. Sarebbe? Una birra e una salsiccia, una birra e una salsiccia. Il primo di noi che scoppia paga il conto e perde la macchina. Birra e salsicce, Franco. Birra e salsicce. Un classico. Altrimenti ci arrabbiamo. Bud Spencer e Terence Hill, ovvero Carlo Pedersoli e Mario Girotti. Ma tu lo sai che Peter Soli Spencer è un vero eclettico, ovvero campione di nuoto, il primo italiano a stare sotto il minuto nei 100 metri a stile libera. E se tu lo vedi oggi dici ma com'è possibile, cioè, che ne c'è proprio il fisico, anche diciamo. Se lo vedevi allora allora se la cavava la grande, adesso che forse avrebbe dei problemi. Alessandra, comunque, ha partecipato a parecchie olimpiadi, ma soprattutto ha scritto anche i testi per Ornella Vanoni e Nico Fidenco. E allora, proprio a proposito di colonne sonore, Franco, la passione degli italiani per i brani strumentali continua? Assolutamente, perché non è stata un'infatuazione, ma un vero e proprio fidanzamento, quelli in casa, quelli seri. E da questo fidanzamento poi è nato un matrimonio che è diventato ufficiale. Roberto Pisano, ovviamente con la sua orchestra, Theme from Papillon, il guardiano del faro, l'ultima neve di primavera e poi Soleado dei Daniel Santa Cruz Ensemble. Cara Alessandra, la passione per i brani strumentali nel 1974 è diventata planetaria, credo che fossero coinvolti anche gli indù, ma quelli che l'hanno commercializzata meglio, come al solito, chi sono? Gli americani. Beethoven 74, James Last, The Entertainer, Marvin Emlish, Love Stem della Love Unlimited Orchestra. Allora, Alessandra, quando tu senti questi pezzi, riesci ad associare in qualche modo questa musica a qualche immagine? Ma io due ne ho associati, cioè due su tre, buono. La stangata. Sì. E l'altra, devo essere onesta, è un suggerimento della regia, Maria De Filippi. Così mi dicono, così Chiappini e Migliaccio dicono, vanno cenno, è Maria De Filippi. È Maria De Filippi, hanno suggerito dalla hanno regia. Hanno ragione, però. Come sempre, perché loro sono lì organizzati con i file, le cose, non che improvvisano, capito? Loro le cose le sanno. Bravo, Google. Allora, quando le case discografiche poi hanno intuito questo successo, mia cara Alessandra, che cosa hanno fatto? Dice, beh, hanno funzionato. Proviamo a mandare altri pezzi così in classifica. Why he moves me, he's a man. Carl Henderson, How Don't Know How to Love Him di Yvonne Hillman e poi The Way We Were di la grandissima Barbara Streisand. E sono sicuro che qui almeno uno su tre l'hai indovinati, Alessandra. Ne basta uno, l'ultimo. Stiamo parlando di un capolavoro assoluto, Come eravamo, il che ci riporta al noto discorso. Il cassetto del pianto. È sempre quel cassetto. È quello che apri, c'è musica, film, libri. E questo è il primo nel cassetto del pianto. Quando vuoi piangere, Come eravamo. La scena finale, lui e lei, lei ancora in realista. Non roviniamo il film, magari qualcuno non l'ha visto, dice poi alla fine bisogna rimettere insieme, per carità. Non roviniamo questo film. Va bene, non lo roviniamo. Comunque, bellissimo, bellissimo. E a proposito di dolori di cuore, Franco, nel 1974, il 12 maggio, gli italiani vengono chiamati a votare per il referendum sul divorzio. Aia. La campagna referendaria pro e contro è stata serratissima, ma noi ve la raccontiamo subito dopo la viabilità. State ascoltando un programma offerto da... CarServer, il noleggio a lungo termine che parte dal tuo territorio. Scoprilo su carserver.it. Mix 24, musica e storia. Cittadini che mi ascoltate, il Partito Comunista Italiano vi invita a votare no sulla scheda del referendum che si terrà il 12 maggio. Con il vostro no respingerete un inganno che si cerca di compiere ai vostri danni. Divorzio chiama divorzio e dimostra che non è un rimedio sufficiente al male al quale si vuol provvedere. Per la ripresa del progresso, per il bene della famiglia, per l'avvenire dei figli, il 12 maggio votate sì! Bentornati su Mix 24, musica e storia. Io sono Alessandra Fiori. E io sono Franco Schipani, ciao! E noi insieme stiamo raccontando il paese nel 1974. Abbiamo appena ascoltato Berlinguer e Fanfani sul pro e contro il referendum sul divorzio del 12 maggio 1974. Perché poi, Franco, c'era un po' di confusione, si giocava anche un po', ma no, che vuol dire? Che sei a favore, che sei contro? Ma se non me ne parlare, io ho visto a casa mia piatti che volevano, che volavano. A un certo punto mia madre ha detto a mio padre: ma tu sei a favore o contro il divorzio? Dice: quando tu vai a votare, che cosa voti? Lui dice: io voto no. Ah, allora lo vuoi il divorzio? No, aspetta, no. No, io volevo dire no, perché io non voglio divorziare. No, perché tu hai detto prima che volevi divorziare, che un disastro. E in pratica no, voleva dire sì, sì. Questo era. Oh. E su questo però bisognava insistere moltissimo. Siamo a favore del divorzio sia pensando ai genitori che pensando ai figli. Quindi il 12 maggio, festa della mamma, noi, io e Laura, voteremo no perché non vogliamo che sia abolita la legge per il divorzio. Scusi, signor Maffedi, lei è per l'abolizione? Lei è del fumo, magari. No, dicevo, lei è per l'abolizione del divorzio. Scusi, ma ci sono tante cose brutte da abolire, vogliamo abolire proprio l'unica buona, il divorzio. Lei è da 20 anni un marito e un padre felice. Soprattutto responsabile. Allora perché è favorevole al divorzio? Perché io sono per l'indissolubilità del matrimonio riuscito e non del matrimonio fallito. Perché è meglio il divorzio delle corna quotidiane, delle botte con intervento dei vicini, delle pistolettate, delle coltellate, dell'arsenico nei cannolicci. Chi vuole il divorzio vota no! No all'abrogazione del divorzio. Erano gli spot televisivi che Gianni Morandi e Nino Manfredi registrano a favore del no, cioè a favore del divorzio. E il messaggio arriva, perché il 59,3% dei votanti si esprime contro l'abrogazione della legge. Risultati: più di 19 milioni di italiani dicono sì alla legge sul divorzio. Capitolo chiuso. Si può divorziare, Franco. Oh. Sono passati 41 anni e siamo al divorzio breve. Se ci vorranno altri 40 anni per le unioni gay, vedremo. Sì, mia cara Alessandra, però a proposito di gay e di non gay club, questi pezzi erano suonati in tutto il mondo. Woman, Rock Your Baby, George McRae, Waterloo degli ABBA e The Sound of Philadelphia della Mother, Father, Sisters and Brother, che era la colonna sonora della trasmissione televisiva Soul Train, cara Alessandra. Caro Franco. Sai che cos'è Soul Train? No, ti vedo un po' con la faccia dubbiosa. Sono impreparata. Famosissima, Franco, trasmissione americana che era fatta su un canale per vista 100% da gente di colore, che iniziava con questa sigla che è stata giudicata la prima vera canzone disco music di sempre. Ed era un inizio, questo, che era un po' tra gli X Factor e Ballando sotto le stelle. C'erano dei ballerini non professionisti che però si allenavano per mesi per andare a Soul Train finalmente e far vedere quanto erano bravi a ballare con questa canzone in sottofondo. Quindi della serie, come al solito, non ci inventiamo niente. Dopo questa canzone arriva veramente la tempesta. Ma la tempesta arriva su tutti i fronti. Il 1974 è l'anno dell'esplosione del terrorismo nero. E a Brescia, il 28 maggio, a Piazza della Loggia, in pieno centro città, è in corso una manifestazione antifascista. Sul palco c'è il sindacalista Franco Castrezzati. Almirante, ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni. Oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al... La bomba, nascosta in un cassonetto, esplode provocando 8 morti e più di 90 feriti. Ma non è finita. E quell'estate, nella notte tra il 3 e il 4 agosto, un'altra bomba esplode sul rapido Roma-Brennero. Questa edizione straordinaria del telegiornale è dedicata a un criminale attentato avvenuto questa notte sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna contro il treno Roma-Brennero. Il bilancio è gravissimo, 12 morti e un numero imprecisato di feriti, oltre una trentina, alcuni dei quali gravi. Lo scoppio, seguito da un incendio, è avvenuto... È la voce di Tito Stagno in un'edizione straordinaria sulla strage sul treno Italicus, in cui muoiono 13 persone e ne rimangono ferite altre 66. Anche questo attentato viene rivendicato da Ordine Nero. Ma le tragedie in questo 1974 non sono finite in Italia. Allontaniamoci un attimo, Franco. Cosa succede all'estero nella musica? Cosa succede? Succede che dopo questo accenno di disco music, tutti cominciano a orientarsi verso quel tipo di musica. Allora, anche i gruppi musicali, quelli che facevano, capito, proprio rock pesante, quelli che non ci pensavano neanche alla disco music, hanno intuito che in qualche modo sarebbe diventato il filone, quello importante, quello commerciale, quello che poi gli avrebbe dato visibilità dei prossimi anni. E infatti avevano ragione. Ma ragazzi, tutti hanno cominciato a fare disco music, ma proprio tutti. Guardate un po' anche chi. Motion, Grain Funk Railroad, Nutbush City Limits, Ike and Tina Turner, cioè, capito, i Grand Funk Railroad, che sono un gruppo rock di quelli pesantissimi che fanno una canzone di bubblegum. Scusami, Franco, però io ho avuto un attimo di commozione, ti spiego perché. Ah, ti sei commosso. Perché questa canzone, The Locomotion, ascoltandola bene, ho capito finalmente cosa dice. Come on, do the locomotion with me, cioè vieni a fare il trenino con me. È il famoso trenino. E da lì è cominciato il trenino, capito? Ah, da lì che parte. Allora, nel 1974 inizia il trenino. Il trenino. Va bene, perfetto. Comunque, colpo di scena, perché nel 1974 nelle classifiche italiane ritorna anche questo pezzo. Mama, take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock Knock on Heaven's Door, un pezzo classico scritto da Bob Dylan. E Franco, ma anche gli Stati Uniti nel 1974 vivono un anno di grande crisi politica ed economica. Noi ve la racconteremo dopo il GR, ma prima vi ricordo che dal 28 tornerà Mix 24 con Minoli, Sechi e Buttafuoco. E intanto, se ci volete scrivere i vostri ricordi degli anni 70, racconti, i commenti, fatelo al numero 349-238-6666. Noi torniamo subito dopo il GR con la crisi in America. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Car Server, il noleggio a lungo termine che parte dal tuo territorio. Scoprilo su carserver.it. Mix 24, musica e storia. Good evening. This is the 37th time I have spoken to you from this office, where so many decisions have been made that shaped the history of this nation. Era il discorso di Nixon in occasione delle sue dimissioni, che nel 1974 avvengono in seguito al celebre famoso scandalo del caso Watergate. Bentornati su Mix 24, io sono Alessandra Fiori. Io sono Franco Schipani. E stiamo raccontando il paese attraverso la sua storia e la sua musica. Siamo nel 1974, abbiamo detto che Nixon si è dimesso e tutta la vicenda è raccontata magnificamente in questo film di cui sentite le note. Lo riconosci, Franco? Lo riconosco perché qui dentro, vedi? Qui nella mia testa i file visivi sono associati a quelli musicali. Esatto. Questo è Tutti gli uomini del presidente. Un bravo, grandissimo film con Robert Redford e Dustin Hoffman. Allora, Alessandra, rimaniamo comunque all'estero, perché i Beatles si sono divisi, però Ringo Starr a un certo punto si ricorda di essere stato un membro della band. Invece Paul McCartney e John Lennon non l'hanno mai dimenticato. You come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful and you're mine. Through the night, it's alright, it's alright. 16, Ringo Starr, Helen Wills, Paul McCartney, Whatever Gets You Through the Night di John Lennon. Scusa Alessandra, ma a questo punto, sai, i Rolling Stones non sono in classifica in Italia da un bel po' di tempo. Io mi domandavo che fine avessero fatto, invece ritornano proprio nel 1974 con uno dei brani più belli della loro immensa discografia. Angel, angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money. Angie, Rolling Stones. Franco, io ti capisco e ti perdono, perché Angie, dai, la vedi la beh, Angie, non piangere, Angie, dove ci porterà il destino? E il destino italiano è segnato dall'escalation del terrorismo nero, l'abbiamo visto, e anche da quello rosso. La stagione dei rapimenti delle Brigate Rosse prosegue anche in questo 1974, il 18 aprile, con il clamoroso rapimento del giudice Mario Sossi. Questo l'annuncio delle Brigate Rosse. Un nucleo armato delle Brigate Rosse ha arrestato e rinchiuso in un carcere del popolo il famigerato Mario Sossi. Sossi è una pedina fondamentale dello scacchiere della controrivoluzione, un persecutore fanatico della classe operaia, del movimento degli studenti, dei commercianti, delle organizzazioni della sinistra in generale. Ascoltiamo il brigatista Alberto Franceschini, carceriere di Sossi, che racconta di quando ha deciso che sarebbe stato lui a ucciderlo. Perché decisi che ero io che avrei dovuto sparargli? Proprio perché si era costruito tra me e lui questo rapporto molto particolare. Ma volevo verificare con me stesso appunto la mia capacità di essere un rivoluzionario fino in fondo, cioè la mia capacità di saper prendere le distanze da questa dimensione umana che era andata che ero andato a costruire con un nemico di classe, col peggior nemico di classe. E sentiamo il giudice Sossi sul rapporto con il suo carceriere. Senta, comunque Franceschini, dicevo, il suo carceriere è libero da tempo. Lei lo ha rivisto mai? No, per mia fortuna non l'ho. Perché non lo vorrebbe incontrare? No, in modo assoluto. Non avrebbe voglia di incontrare? No. Perché? Ma non me la sento per ora. Ma prigione. Che cosa la blocca nell'idea di incontrarlo? È una impossibilità assoluta di comprensione. In cambio della liberazione di Sossi, le BR chiedono la scarcerazione di 8 terroristi. La Corte d'Assisa ed Appello di Genova dà parere favorevole alla libertà condizionata per gli 8 terroristi. Ma il presidente del Consiglio Rumor si oppone. Lo Stato non abdica, dice. Pertanto non verranno compiuti atti che possano significare inammissibili patteggiamenti con un gruppo di criminali. E il procuratore di Genova, Francesco Coco, blocca l'ordinanza per la scarcerazione dei brigatisti. Mario Sossi viene liberato dalle BR il 22 maggio del 74. Il procuratore Francesco Coco pagherà il suo gesto con la vita. Nel 76 sarà il primo magistrato ucciso dalle BR. Certo, Alessandra, è un po' difficile ritornare a parlare di musica dopo aver sentito un po' di questi eventi. Comunque, sì, la vita continua nel nostro paese e continua anche il Festival di Sanremo. E comunque è un festival sottotono, è come se questo festival non fosse mai esistito. La Rai se ne disinteressa completamente, non esiste neanche una registrazione della serata finale, pensa. I brani fanno un flop nelle hit parade, insomma poche canzoni interessanti. Le uniche novità sono queste. Io più ci penso, più mi viene voglia di sempre tu e sto sbagliando di più. sasso nero le brucia le dita, tira le pietre per sette volte, sa che l'amante suo l'ha tradita, sa che l'amante suo l'ha tradita. Inventi le mie forme, lo stile è quello tuo, poso per ore davanti a te, mi dipingi di sole anche se non c'è, a un tratto trovo me. Inventi quei colori, le ombre su di me, poi chiudo gli occhi sul nome mio, quel che inventi lo sogni son sempre io, mi sento dentro te. Più ci penso, Gianni Bella, piccole fragile drupi, Anna Bellanna, Lucio Dalla e Inventi, Renato Zero. Quindi Franco, 1974, pochissime soddisfazioni da Sanremo. Poche, Alessandra. Però ne arrivano tante dal cinema. La senti? La sento. La senti? C'eravamo tanto amati. Sempre stesso file. Ettore Scola, lo so, quello è il file in cui vado. Comunque il 1974 è l'anno anche di un altro grandissimo film. Ma noi quest'altro meraviglioso, imperdibile film ve lo facciamo rivivere subito dopo la viabilità. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta Mix 24, musica e storia. Questo è per la crisi economica in cui ci precipitaste. Andiamo a pagare le tasse e a portare i soldi alla Svizzera, te e gli altri comattieri. Ma cosa c'entro io? Centro! Questo è per gli ospedali, che un poverazzo non ci riesce a entrare mai, che magari è meglio, perché se c'entra muore. Ma perché dovrei pagare tu me? Sono io la colpevole di tutti i mali del mondo, eh? Sì! Bentornati su Mix 24, musica e storia. Io sono Alessandra Fiori, ride accanto a me. Sono Franco Schipani, rido perché ho sentito lo schiaffo. Hai sentito gli schiaffi, effetti speciali, plurale. Perché erano Giancarlo Giannini e Mariangela Melato in quel film meraviglioso che è Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto della Vermuller. Grandissimo film e grandissimi interpreti, cara Alessandra. Allora, dove sono i nostri, quelli forti, quelli importanti, i nostri big? Vivono in quest'aria grigia, ci sono ma non ci sono, ma quando ci sono realizzano dei pezzi stupendi. Se ti fa comodo. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato l'udito così certo e chiaro, sento notti e giorni. E poi Mina, Bella senza anima, Riccardo Cocciante, Grazie alla vita di Gabriella Ferri. E poi ci sono quelli bravi, ma che sono anche furbi, i migliori venditori di se stessi. Tu sei bellissima, sei come l'acqua limpida. The kind of boss dies. Adriano Celentano. E poi un'altra canzone di Celentano. Questa però la dici tu. Prova un po' a dire il titolo tu. No. Si dice Prisencolinenciusenchiago. Insomma, pensa che noi non lo sappiamo dire. I bambini di 5 anni all'epoca lo sapevano a memoria. Ah, io guarda, non ci provo neanche. Va bene. Va bene, però invece ti voglio offrire uno spunto di riflessione. Pensa un po'. Oggi il finanziamento pubblico ai partiti è stato abolito. Invece nel 1974 il Parlamento vota la cosiddetta legge Piccoli, che introduce appunto il finanziamento pubblico ai partiti. Pensa come cambiano gli vanno umori. avanti indietro come se una pista d'atletica. Esatto, proprio. E bravo Franco, vedi, perché io ti voglio dare esattamente una buona notizia, anzi te la faccio ascoltare. Ed ecco il via, in questo momento sono scattati. È come Ennea prodursi in un allungo in curva. Lo vediamo correre davanti in seconda corsia. Sulla diretta d'arrivo si presenta in testa Homer. Si distende Ennea in una magnifica galoppata. Una galoppata rampante che gli dà la vittoria. Ennea vince davanti a Homer, terzo. E Bombac, una cronaca diventata storica, quella della vittoria di Pietro Mennea nei 200 metri agli europei di Roma. Mennea ha 22 anni e da questo momento, Franco, nessuno lo ferma più. No, dico, Alessandra, ti rendi conto che io soltanto a sentire la telecronaca a me mi è venuto proprio il fiatone. Invece quelli che non hanno il fiatone perché stanno correndo sulle strade del successo sono... Dimmi che vuoi darmi felicità, e sotto la mia pelle nascerà. Voglio ridere quando piangerai e ti dirai pensandomi: signora mia, mi scusi se ho suonato, ma non so che cosa sia la voglia di parlarle che mi ha preso. È stato come un fuoco che si è acceso. D'un tratto sei così diversa, come sei strana stasera. Ragioni come se non fossi quello che sono. D'accordo, ma l'amore è un sentimento. Inno Mia Martini, voglio ridere in omeni. Signora mia, Sandro Giacobbe, noi due per sempre. Wes e Dori Ghezzi. Wes, che per me è rimasto sempre un mistero, perché non ho mai capito perché uno di colore che non sa cantare lo hanno messo accanto a una bellissima donna con una voce straordinaria, cioè una che in certi giorni della settimana è più bella di Patti Pravo. Cioè, un mistero veramente irrisolto. Ah, quindi per te lui... Irrisolto. Invece il mistero di Alan Sorrenti, quello del 1974, credo proprio di esserne riuscito a venire a capo recentemente. Dici t'ancella sta compagna vostra, caccia perduto sonne a fantasia, ca pensa sempre che tutta vita mia io ciò volesse dicere, ma non ciò sa. Alan Sorrenti, dice Dencello Vuie, cioè, mamma scozzese e papà napoletano, quindi doveva fare questo pezzo napoletano, perché poi lui, diciamo che una parte è stata un po' prevalente, sì, ma perché lui prima faceva il santone, ti ricordi Alan Sorrenti con la barba lunga, questi caffetani bianchi, che faceva il profeta, che camminava, niente, a un certo punto ha visto le classifiche, ho detto io lì non ci sono mai andato, che facciamo un pezzo napoletano, e ha avuto ragione. Questo dietro senti, questo è Tony Esposito che si era dato proprio una calmata, capito, tutte allineate e coperti, Alessandra, tutti lì erano. Va bene Franco, però adesso, prima di salutare questo 1974, vogliamo salutare alzando un po' il ritmo, o insomma un po'... C'è una cosa più allegra, ma un po' dire. Più vitale. Va non bene, lo volevo allora dire così, però l'hai detto tu. Vi lasciamo con Non gioco più, e lo canta Marlene Kunz. sono Franco Schipani, vi saluto. Io sono Alessandra Fiori, vi saluto, ci vediamo nel 1975. Cioè lunedì. Lunedì, ciao. Non gioco più, me ne vado. Non gioco più, davvero. La vita è un letto sfatto, io prendo quel che trovo e lascio quel che prendo dietro me. Non gioco più, me ne vado. Non gioco più, davvero. La faccia di cemento, tu parli e non ti sento. Io cambio e chi non cambia resta a me. Carserver, il noleggio a lungo termine che parte dal tuo territorio. Scoprilo su carserver.it. Vi ha presentato Mix 24.